Su un mondo che non c'è. Siamo arrivati. Questa è casa mia, visto? Ho messo il divano nuovo. Cosa dici? Spero la presa in affitto. Pago 500 euro al mese. Qua ci voglio fare tutta la discografia che abbiamo fatto dei dischi. Bellissimo. Cioè, che devo chiamare Wender.